Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, 9 e 10 minuti per una nuova puntata di Uno Nessuno 100.000, anzi una nuova settimana, non una settimana qualunque, la nona settimana decisiva per l'approvazione della riforma elettorale. E la iniziamo con Pietro La Corte in regia. Chissà, questo secondo me è di buon auspicio per la riforma elettorale, lui ne sa molte. Pietro La Corte in regia, ne sai molte? Scuote i ricci e la faccia, niente. Vabbè, con noi insieme alla redazione, da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, siamo tutti qui riuniti. In arrivo Leonardo Manera, chi lo sa, c'è una pioggerellina fitta a Milano? No, fitta no, c'era una pioggerellina, ma questo umidiccio è unito alla nebbiolina, secondo me, sconsiglia Manera a togliersi la vestagliona e alzarsi dal divano. E quindi chissà, mi sa che lo vedremo collegato. Intanto voi scriveteci al 349-238-6666, chiamateci se volete all'800-24-0024. Vai Pietruzzo, che abbiamo una puntata ricca oggi. I will not be easy and it will not be easy. Sapete come inizio le puntate sempre, ricordando che da 77 giorni nello specifico 18 pescatori di Mazara del Vallo sono stati rapiti e sono trattenuti e detenuti in Libia. 77 giorni. Sapete che alle 9.30 parleremo di scuola il lunedì con Maria Piera Ceci. Oggi devo... mi ha colpito questa intervista di Agostino Miozzo, intervistato da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Cosa ha detto? Adesso ve lo dico cosa ha detto. Il titolo è sintetizzato così sul Corriere, l'avete sentito anche nel giornale radio: si devono riaprire le scuole. Io quando l'ho letto ho detto, oh, alla buon'ora, ce l'hanno fatta, si devono riaprire le scuole. Agostino Miozzo, ma soprattutto è quello che dice a Fiorenza Sarzanini, che mi colpisce molto, dice questo: molti politici hanno scelto di sacrificare la scuola come segnale di efficiente reazione in risposta all'emergenza. Ho la percezione che la tradizionale cultura di disprezzo del bene primario che è la scuola e la formazione dei nostri giovani si traduca bene nelle reazioni di molti improvvisati politici del nostro disgraziato paese. E quindi lui è a capo del CTS e tutti qua a dire in coro, forza, tutti a Pietro La Corte. Adesso iniziano a scrivere grande La Corte, viva La Corte. Dai, La Corte, anche tu, urla. Miozzo, Miozzo, Miozzo. Miozzo. Perché allora Fiorenza Sanzanini glielo chiede, ma lei vorrebbe riaprire le scuole? Rispondo come ha risposto il governo inglese. Essere a scuola è vitale per l'istruzione dei bambini e il loro benessere. Il tempo trascorso fuori scuola è dannoso per lo sviluppo cognitivo e accademico dei bambini, in particolare gli svantaggiati. E Miozzo si è accorto, coordinatore del CTS, che forse lavora per molti improvvisati politici di un disgraziato paese. Lavorerà ancora al CTS? Non so, facciamo una previsione. Penso di sì. Speriamo. Miozzo! Miozzo! Solo che oltre a dirlo, adesso fatelo di riaprire le scuole, no? Oltre all'ora di riaprire le scuole è anche l'ora dell'aprire la bocca. Devo dire che a me, per esempio, non disturbano i complottisti, nel senso che sono affascinato anche da queste teorie del complotto. Più che i negazionisti mi interessano i complottisti. I complottisti, sapete che c'è la teoria del NOM? La conoscevate questa? Il nuovo ordine mondiale. Ovviamente c'è sempre massoneria, illuminati, il Quarto Reich, l'ONU, gli USA, Bill Gates, il 5G, mettete tutto insieme, le case farmaceutiche, stupendo, stupendo, tutto insieme. Allora, l'ora di aprire la bocca. Vabbè, è un mito, una leggenda, è il direttore di Radio Maria Livio Fanzaga, eh? Vai, vai, ordine, complotti, lui c'ha Satana sempre, Satana che muove le fila di tutto, vai. Questa epidemia è stata un progetto ovviamente che io ho sempre attribuito al demonio. Il demonio agisce attraverso gli uomini, quindi delle menti criminali hanno realizzato questo progetto. Instaurare una dittatura sanitaria, una dittatura cibernetica, è un progetto portato avanti dalle elite mondiali per costruire il mondo nuovo senza Dio. Beh, ma c'è tutto, cibernetica, il demonio, il nuovo ordine senza Dio. Vai, vai, ancora Pietruzzo, Livio Fanzaga, sentiamo. È il passaggio fondamentale, quello di mettere in ginocchio l'umanità, spogliandola di tutto in pratica, eliminare tutti quelli che non stanno a questo gioco, realizzare quel mondo nuovo che sarebbe il mondo di Satana, insomma, perché il mondo nuovo, la creazione, cioè il mondo di Satana, come volete. Cosa volete che sia il mondo nuovo, no? Dove noi saremo tutti dei zombie? Perché il nuovo è per forza Satana? Perché? Perché, Don Livio Fanzaga, perché il nuovo per forza deve essere Satana? Un po' di speranza alle future generazioni, perché? Perché? Tra l'altro il sindaco di Bari, De Caro, che anche lui fa ogni tanto dei video su Facebook interessante, sentite come prende un po' in giro i complottisti, De Caro. Il vaccino alla fine lo ha scoperto una casa farmaceutica, e chi lo doveva scoprire il vaccino? La cartolibreria Futura, che ne so, chi lo doveva scoprire? I dipendenti di Decathlon, con tutto il rispetto per i dipendenti di Decathlon, lo scoprono le aziende farmaceutiche che poi lo producono. Alcune volte leggo delle cose che mi chiedo, ma da dove, non lo so, dove sto? Stupende, e invece i complottismi sono belli da leggere. Che succede? Avete la faccia come il culo. Così, un premio Giachetti, chi vuole se lo piglie, un premio Giachetti messo lì. A chi? Adesso Pietruzzo la corte, devi dichiararti a chi? A chi? Ah, i complottisti, vabbè, molti urlano Miozzo, beh, Miozzo, sì, anch'io dico viva Miozzo, bisogna riaprire le scuole, però fatelo adesso in sicurezza. E fatelo come in tutti gli altri paesi. Non è una mania quella che ho, come qualcuno mi dice, una mania. No, i migliori sono quelli invece che mi insegnano come educare i figli. Tu li vuoi mandare a scuola perché non sai educare i figli a casa. Questa è la teoria complottista più bella. No, voglio mandarli a scuola perché penso da che mondo e mondo i figli debbano essere mandati a scuola. Io penso così. Comunque, signori, alle 9:18 minuti, 800 24 0024. Parliamo di altro, perché lo dico sempre, non c'è solo il Covid, e quindi noi vogliamo ora trattare un altro argomento. Io vi segnalo questo, che a Lampedusa sono arrivate 300 persone nelle ultime 24 ore, e questa vicenda, la vicenda delle migrazioni, la vicenda dei migranti, è totalmente uscita dall'agenda politica, mi sembra di poter dire, e figurarsi, è uscita anche dai giornali, non c'è menzione proprio di questo sui giornali. Eppure altri 300 arrivi nelle ultime 24 ore a Lampedusa. Il sindaco continua a dire che la situazione è fuori controllo, i centri sono pieni. C'è anche un audio che ha molto colpito, delle immagini che hanno molto colpito chi vuole essere colpito da queste immagini, gli indifferenti rimangano pure indifferenti, non importa, e cioè il dolore di quella mamma che proveniva dalla Guinea, che in un tentativo appunto di traversata del Mediterraneo ha perso il figlio Joseph di 6 mesi. Da quell'urlo voglio partire. I lose my baby. Why me? Why my baby? Why my baby? Allora, qui non c'è da essere né buonisti. Adesso io lo so già che vi dividerete tra i buonisti, i cattivisti. A me i cattivisti hanno un po' rotto le scatole. Insomma, è l'era dei cattivisti e dei cattivi. Hanno un po' stancato. Io vorrei partire da un giornalista, Andrea Pipino, che saluto. Buongiorno Pipino, grazie. Buongiorno a voi. Andrea Pipino, giornalista internazionale, che ha curato una pubblicazione speciale in libreria, in edicola, dal titolo In cerca di fortuna, l'emigrazione italiana dall'Ottocento a oggi, sulla stampa di tutto il mondo. Cioè, cosa avete fatto? Sei andato a scovare tutti gli articoli che parlano degli italiani migranti, e siamo stati un popolo di migranti, per scoprire che ci hanno dipinto in questi anni, in questo secolo, non proprio benissimo, no? Sì, abbiamo applicato, diciamo, il metodo di lavoro che abbiamo internazionale, ossia selezionare articoli della stampa straniera per raccontare il fenomeno appunto dell'immigrazione italiana senza soluzioni di continuità, cioè dal grande esodo post-unitario fino alla recente migrazione, che specialmente dopo la fine della crisi del 2008 ha avuto un nuovo ritorno di fiamma, perché insomma molti italiani, specialmente giovani, sono comunque partiti per andare a lavorare all'estero. Sì, abbiamo scoperto cose che in parte già si sapevano, cioè ossia che insomma, gli italiani non sono stati accolti sempre, come dire, con entusiasmo dai paesi di destinazione dove arrivavano. Questa è una cosa che negli ultimi anni, insomma, ci sono stati, oltre ovviamente a importanti testi storici, anche lavori di divulgazione che hanno avuto molto successo, che hanno raccontato appunto la situazione per gli italiani che arrivavano negli Stati Uniti, ma anche in Europa, in Svizzera, in Germania, in Australia, che molto spesso venivano accolti con posizioni, un'ostilità che a volte era sfociava nel vero e proprio razzismo. Sì, diciamo, rubavano stereotipi. Sì, rubavano il lavoro, portavano le malattie. Sì, erano sporchi, impossibili da assimilare o da integrare, perché avevano una cultura considerata troppo diversa rispetto a quella delle, molto spesso, specialmente dei paesi anglosassoni e protestanti, rispetto a quella delle popolazioni stanziali, e insomma molti degli argomenti che in effetti è vero ritornano ancora oggi quando si parla di beh, ma qui ripeto, non c'è né buonismo né cattivismo. È vero che l'immigrato, come dire, viene sempre visto come colui che viene è sconosciuto, viene da una terra straniera, è diverso per cultura, è diverso per tradizioni, è diverso per modi di comportarsi, parla una lingua diversa, e quindi c'è una ostilità di base. Credo che sia anche umano, no? Umana una paura iniziale, o no? Ma sì, è chiaro, è evidente, cioè è normale che dei movimenti di popolazione di massa di questo tipo creino delle tensioni a livello sociale, a livello di percezione, perché poi, come dire, spingono le popolazioni che accolgono anche a farsi delle domande su se stesse, sul proprio ruolo, sulla propria identità, e questo è normalissimo. Però devo dire che nel lavoro di selezione degli articoli che abbiamo fatto abbiamo sì trovato molto materiale anche su giornali molto prestigiosi, penso al New York Times, che all'inizio del Novecento pubblicò delle cose impensabili oggi sugli italiani e sugli altri immigrati del Sud Europa che arrivavano negli Stati Uniti, però allo stesso tempo, specialmente in paesi che avevano, come dire, una tradizione di stampa molto solida, sì, come appunto gli Stati Uniti, già alla fine dell'Ottocento ci sono degli articoli che dimostrano che è un tentativo di capire il fenomeno, c'è. Di capirne le ragioni e come dire, di gestirne le conseguenze, quindi può preoccuparsi di integrazione, già ci sono, abbiamo pubblicato in questo giornale molti di questi articoli, avremmo potuto fare un repertorio di pezzi brutalmente razzisti, no, invece c'era anche il tentativo anche di capire questa situazione, sì, perché in realtà il dibattito sull'immigrazione, specialmente ripeto nella stampa di paesi più strutturati e più avanti si va col tempo più la cosa è evidente, esiste ed è abbastanza ampio e le posizioni sono molto diverse, ci sono le cose e ne abbiamo pubblicate diverse che proprio trattano l'italiano come un cittadino di serie B, un invasore, un impostore, una persona sporca, inaffidabile. Poi però ci sono anche invece gli articoli che riflettono in maniera, come dire, più ponderata sul significato. Ma insomma, come qui anche in Italia, cioè non c'è solo bianco e nero. Ma insieme a Andrea Pipino fatemi salutare Riccardo Gatti, che è il capo missione di Open Arms. Buongiorno Riccardo Gatti, e grazie di essere qui. Io sono partito dall'urlo di quella mamma che ha perso il figlio di 6 mesi in un video che avete pubblicato voi, perché siete stati voi a operare in questo tipo di salvataggio. Vogliamo, ci aiuta a capire perché continuano gli sbarchi nonostante non sia la bella stagione, e quindi arriva il freddo, l'inverno. Sì, è molto semplice, la bella stagione è finita, e però ci sono comunque ciclicamente, no, periodi di buon tempo nel mare, che sono è proprio il fattore che influisce nelle partenze, no? Adesso il problema che si aggiunge, diciamo, è proprio la temperatura dell'acqua e il freddo che fa, ma le partenze non si sono mai fermate neanche in inverno. E la situazione, cioè cosa rispondete al solito dibattito che c'è, cioè vi accusano in qualche modo di essere i taxi del mare, lei li avrà sentite un po' tutti, i taxi del mare, la calamita per i migranti, il fatto che siccome ci siete voi molte persone sono invogliate a partire. Sì, sì, sono attacchi che abbiamo ricevuto da sempre, ma prima di riceverli noi li avevano ricevuti i ragazzi e le ragazze della Guardia Costiera, quando prima di noi e poi con noi operavano soccorso in quelle zone, prima di loro lo ricevevano l'operazione Mare Nostrum della Marina Militare Italiana. No? Sono attacchi che di base hanno probabilmente dei quesiti, delle questioni che sono anche lecite da pensare. Voi siete lì e allora le persone partono, però è stato proprio dimostrato, studiato scientificamente, dimostrato che non è così. Non c'è nessuna correlazione temporale nel fatto della presenza di navi da soccorso e le partenze. Sì che c'è una correlazione temporale nel fatto che la presenza dei soccorsi diminuisce la percentuale di persone morte, invece la presenza del che è normale, no? Però purtroppo questi attacchi continuano perché è un discorso facile, invece leggersi i dati, gli studi dei diversi istituti, università, per esempio anche l'università, l'Oceanografico Forense dell'Università di Londra, l'ISPI, gli studi dell'ISPI e quant'altro, invece è un po' più, diciamo, richiede un po' più di tempo. Via. Sì. Il dibattito è scomparso dai giornali per il Covid, questo mi sembra, lo dico io, non è tanto una domanda, cioè io la penso così, mi dica cosa ne pensa lei e mi dica anche che cosa pensa che si debba fare con questi migranti in questa situazione particolare, cioè è ovvio che il Covid c'è, la minaccia c'è, è mondiale, non è che possiamo pensare per esempio che chi arriva non possa anche essere positivo. No, no, certo. Beh, il dibattito è sparito sia per il Covid sia perché praticamente non ci sono navi di ONG in mare, ricordiamo che siamo solo noi perché tutte le altre sono bloccate per blocchi amministrativi, no? Perciò non c'è quella testimonianza che poi è una testimonianza scomoda e che è alla base del fatto di tutto questo attacco questa criminalizzazione contro ONG, perché evidentemente mostriamo una realtà che è abbastanza scomoda per i governi europei e i governi italiani in primis. E d'altra parte cosa bisogna fare? Beh, bisogna rendersi conto che sia per il Covid o non per il Covid le persone continueranno a viaggiare, fuggire dai luoghi da cui arrivano, da cui partono, e perciò questa non si può fermare. Bisogna rendersi conto che c'è un problema aggiunto. Noi a bordo lavoriamo come lavorare in un ospedale, praticamente uguale, usiamo gli stessi protocolli. C'è da ricordare che a bordo con noi c'è Emergency e utilizza gli stessi protocolli che si utilizzava a Bergamo, no? Sì. Perciò bisogna rendersi conto di ciò. Ciò che non bisogna fare, io credo, è quello che spesso e volentieri invece vediamo gli atteggiamenti dei governi, che è cercare di evitare di affrontare questo. Sì, in questo momento, no? Poi soprattutto è così. Un'ultima domanda, Riccardo Gatti, gliela faccio da un ascoltatore, che è un'accusa molto, molto grave. Le barche vanno in mare dopo aver preso accordi preventivi con Open Arms sulla rotta. Che risponde? Ma è prima di tutto che è falso, però se ha questa accusa da fare, che presenti una denuncia e porteremo avanti appunto in sede di processo queste accuse. Queste accuse. Più di questo. No, va chiaro, la risposta è chiara. Io la ringrazio Riccardo Gatti, capomissione Open Arms, come ringrazio Andrea Pipino, giornalista internazionale, dove hanno fatto un lavoro molto interessante, lo potete trovare ovviamente su La Stampa e come ci hanno dipinto noi migranti italiani nei secoli, nell'ultimo secolo abbondante. Non è un paragone, rispondo a un ascoltatore che dice: ah, ma paragonare gli italiani che andavano a questi migranti, ma chi ha fatto il paragone? Cioè, stiamo raccontando una storia, a volte cerchiamo di spiegare le cose che siano un po' più profonde del vedere o bianco o nero, che peraltro l'ho detto mille volte, sono due colori che messi insieme non mi piacciono per nulla, bianco e nero, e non sto pensando al Siena, va bene? È arrivata Maria Piera Ceci. All'Ascoli. Bianco nero. All'Ascoli, è vero. Maria Piera Ceci è di Ascoli. E quindi... Sono solo questo nella mia scuola, Riccardo, cioè, mi chiedere altro. Pure bianco nera sei. Sì, per forza, nel cuore. Vabbè, si resta sempre del posto dove si nasce. Dell'Ascoli, va bene. Dopo la pubblicità parleremo con Maria Piera Ceci di scuola. Io, guarda, che ho iniziato Miozzo. Miozzo. Anche dopo Miozzo. Siamo già in due. Miozzo. Tutti con la doppia Z. Tutti quelli con la doppia Z ci piacciono. E ci fermiamo qui. Miozzo, va bene. Sarà con noi anche Maria Piera Ceci. Ha intervistato il maestro, professore e scrittore Alessandro D'Avenia. Comunque, dai, tra un attimo. Uno, nessuno, 100 Milan. Questo paese di pazzi, ma si possono avere dei dati scientifici certi, per cortesia? Ma io sono d'accordo con Cacciari, ma i dati scientifici certi si possono avere, grazie. Buongiorno Milan, ma mi spieghi come mai, quando era ministro dell'interno Salvini e moriva un migrante, era un disastro e veniva aggredito da ogni parte? Oggi la Lamorgese nemmeno la nominano, nessuno la chiama e nessuno la intervista. Tutti a scuola! Per Miozzo! Miozzo! Solo però, che Alessandro, fatelo, non ditelo e basta, fatelo. Abbiamo fatto bene a tenere questa sigla, sì, perché una buona notizia oggi, sì, torneranno, attenzione, forse in classe, allora, il 24 novembre i bambini campani della come scuola forse dell'infanzia, allora, e della prima elementare, perché da qui al 24 possono ripensarci banalmente per questo. Le buone notizie però si fermano qua, perché è una specie di necrologio quello di oggi, a casa gli alunni calabresi dalla scuola dell'infanzia alla prima media, gli alunni toscani perché sono passati in zona rossa, quindi seconda e terza media, getta la spugna la Basilicata in zona arancione, ma tutti a casa fino al 3 dicembre. Tutti a casa, questa è una bella sigla, tutti a casa. No dai, no, crediamoci. E scricchiola anche l'Abruzzo, secondo me sta per arrivare. Cricchiola l'Abruzzo, scricchiola anche l'Abruzzo, sentite proprio, tifiamo per l'Abruzzo, scricchiola l'Abruzzo. No, ma noi scherziamo, perché ci dicono che siamo dei fissati, siete fissati. Sì, è vero, Agostino Miozzo l'ha spiegato bene. Vero. I bambini fuori dalla scuola non bambini crescono. E ragazzi, bambini e ragazzi. Cioè. Bambini e ragazzi, parliamo proprio di ragazzi oggi con il nostro ospite Alessandro D'Avenia, che non abbiamo in diretta, perché essendo un insegnante ha detto: io i miei ragazzi non li mollo la mattina per fare un'intervista in radio. Bene, secondo me ha fatto bene. Quindi l'ho intervistato qualche giorno fa, perché è fuori in libreria col suo ultimo lavoro, L'Appello, edito da Mondadori, un libro che è già in vetta alle classifiche. Una scuola, quella che viene descritta nel libro, ormai chiusa in una burocrazia fredda, con insegnanti che non sono capaci di guardare negli occhi i propri studenti, e in questo caso gli studenti sono quelli un po' problematici di un liceo, quindi parliamo di adolescenti che in questo periodo, come sappiamo, non se la passano affatto bene. Da chi viene salvata questa scuola, da chi vengono salvati questi studenti? Da un insegnante cieco, che è l'unico che riesce a leggere poi in questi ragazzi, nel cuore, nell'anima, insomma, rompendo un po' gli schemi. Allora questo libro davvero in questo periodo lo si legge un po' con occhi diversi. Lui l'ha scritto quando la pandemia non era cominciata, però davvero è una lettura che adesso risulta ancora più interessante. Sentiamo allora su questa nuova scuola, nuova, vecchia, schifosa, insomma non sappiamo bene come definirla, la scuola di questo periodo. Gli abbiamo chiesto proprio come prima domanda: cos'è questa scuola della pandemia? È una scuola disincarnata. Noi stiamo pagando adesso in maniera evidente un prezzo molto alto, ma per qualche cosa che merita adesso semplicemente il necrologio, ma era moribonda già da tanto tempo. A me quello che colpisce è che la scuola diventa una preoccupazione solo nel momento in cui viene chiusa forzosamente, perché non si sa più dove mettere i figli. E questo che cosa significa? Per quello che abbiamo chiesto alla scuola da troppo tempo è che sia un parcheggio, e noi insegnanti trasformati in parcheggiatori a ore. Tutto questo appunto accade da anni, ahimè, io insegno da 20 anni e vedo che problemi che sono tranquillamente risolvibili con un po' di buona volontà, invece a scuola si sono ormai incancreniti, credo ormai per una volontà anche questa politica di non risolvere appunto i mali che affliggono la scuola, e poi chi la paga sono i ragazzi. I ragazzi del suo romanzo lentamente capiscono che per cambiare le cose ci vuole una rivoluzione pacifica, ma pur sempre una rivoluzione. Eppure gli adolescenti di oggi sembrano essere stati presi un po' alla sprovvista da quello che sta succedendo. Sono chiusi in casa, chiusi nelle loro camerette, privati di tutti i loro momenti di socialità che sono così importanti in questo periodo della loro vita, con quelli delle superiori condannati alla didattica a distanza al 100% per chissà ancora quanto tempo. Però stanno zitti, ubbidienti, si vede qualche ragazzo che protesta davanti alle scuole, ma sono ancora iniziative un po' sporadiche. Lei come insegnante che cosa vede in questo periodo negli occhi dei suoi ragazzi? Ma loro sono molto stanchi, i traumi che la didattica a distanza sta provocando noi li potremmo valutare solo nel tempo. Io purtroppo sto vedendo già gli effetti su alcuni ragazzi, alcune famiglie, e sono effetti negativi, molto negativi dal punto di vista psicologico, con aumento dell'ansia, a volte vere e proprie crisi che rasentano il panico. Perché? Perché immaginiamoci di stare sei ore, io sono 6 ore di fronte allo schermo a sentire noi che facciamo delle lezioni. In un'epoca della vita come l'adolescenza, in cui l'unione fra corpo spirito, è essenziale disincarnare queste vite togliendo il corpo, ha delle conseguenze di cui valuteremo gli effetti solo con il tempo. Certo, è vero, i ragazzi sono sempre molto elastici, alla fine di fronte ai traumi sanno tirar fuori il meglio, ma questo richiederà tempo, ancora siamo nel periodo breve in cui le conseguenze secondo me saranno... Sperando che non ci perdiamo per strada qualcuno di questi ragazzi, insomma, no? È proprio quello, che noi ci stiamo perdendo poi più fragili, perché siamo in una scuola che si è occupata per tutta l'estate di acquistare banchi monoposto e non si è mai occupata di venire incontro ai ragazzi che per esempio avevano bisogno del sostegno, quindi alla fine le persone più fragili sono quelle che pagano, oppure i ragazzi in realtà di studio come gli istituti tecnici professionali che hanno bisogno della presenza per poter fare scuola. Sono stati potenziati i laboratori, sono stati potenziati i personali docenti per poter fare i doppi turni. No, ci siamo occupati di oggetti. L'ultimo problema della scuola italiana di oggi sono i ragazzi. Ma in questo momento cosa significa fare l'insegnante? Come possono aiutarli questi ragazzi che stanno vivendo una situazione appunto eccezionale, per far sì poi che non ci ritroviamo una generazione a pezzi quando tutto questo sarà finito? Io quello che dico è che ognuno in ogni ambito di scuola richiede soluzioni diverse, ogni insegnante avrà quella creatività che serve a tenere alta la relazione nell'ambito della didattica, quindi la didattica come luogo in cui la relazione si mantiene viva non nonostante la DAD, ma grazie alla DAD. Chiaramente la partita va cambiata, le carte vanno sparigliate, non si può fare la stessa didattica semplicemente online, altrimenti diventa una serie di conferenze. E mi chiedo io perché non abbiamo messo fino ad ora all'ora delle nostre lezioni su YouTube. I ragazzi si ascoltano comodamente quando vogliono e poi al momento della verifica li verificheremo. Perché non abbiamo fatto così in passato? Forse perché la scuola è relazione. Che ne resterà di questa scuola così particolare, di questo momento quando tutto sarà finito? Ci sarà qualcosa di buono che potremo salvare? Sì, assolutamente sì. Tanto avremmo, si spera, capito che le scuole vanno attrezzate in maniera nuova, che abbiamo delle scuole obsolete dal punto di vista appunto semplicemente anche delle dotazioni tecniche. Quindi io spero che sia una gran presa di coscienza da parte delle famiglie, dei cittadini, non di chi già a scuola ci lavora, perché noi queste cose le sappiamo. Io quello che spero è che sia l'atto definitivo di morte di una quantità di tempo buttato dietro burocrazia, scartoffi, progettazioni inutili. Paradossalmente sembra più semplice occuparsi di carte che della vita faticosa, scomposta di un adolescente. Ma io voglio essere ricordato come insegnante perché all'incrocio di una vita in formazione, in qualche modo, così come è successo a me con i miei insegnanti, lascio il segno per la vita, non semplicemente perché ho compilato migliaia di progetti. Voi non avete idea, da quando è iniziata la DAD c'è molta più burocrazia. Ma dico, ragazzi, ma mettiamo al centro di nuovo le persone, i ragazzi, la loro presenza. Allora forse sarà stata un'occasione di rinnovare la scuola. Ripeto, se noi usciamo da questa scuola senza aver fatto una riforma che parta dall'appello, noi ritorniamo tutto come prima, non avremo imparato niente e sarà un vero peccato. E allora, queste le parole di Alessandro D'Avenia, professore, sì, scrittore. Condivisibili, no? Insomma, bisogna approfittare di questa occasione anche per migliorarla questa scuola, speriamo. Speriamo bene. Rimane ottimista la nostra Ceci, sempre, con Miozzo e con Azzolina, e quindi niente. Diventiamo un bel gruppetto. Un bel gruppetto. Ci troviamo lunedì prossimo. Grazie. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Dottor Milan, buongiorno. Non dimentichi che siamo stati definiti un popolo ignorante. Fine. Finalmente sono state dette le parole chiave. Sono anni che la scuola è stato un parcheggio per i ragazzi e i professori dei babysitter. Vedete, essere nei messaggi, tipo leggo questo: date subito a Pietro La Corte una trasmissione di Sola Musica al mattino, perché lui è così, viene qui a raffa al lavoro di DJ Luket, di DJ Nespoli, a raffa al lavoro di altri, è noto, l'arraffatore, è noto così, l'arraffatore nell'ambiente. Leonardo Manera, dove sei? Sono a casa, buongiorno, sto sorseggiando in un bicchiere di vetro un po' di caffè decaffeinato solubile sciolto nell'acqua tiepida. E l'amarezza. Un sapore terribile, l'amarezza. Fa veramente schifo, devo dire. Fa schifo quello che sto bevendo. Perché non ti sei fatto un caffè normale? No. Perché ci vuole più fatica a fare caffè con la moca. Non voglio tenere la macchinetta perché dopo continuo a bere caffè e non va bene. Ah, okay. Ho la moca, ma per fare la moca ci vuole più tempo. Sono pigro. No, allora perché, scusa, fammi capire, tutti quelli che hanno la macchinetta si fanno una macchinetta ogni due secondi, ma Melania, sì, non si fa un caffè Melania? E non mi ha ancora risposto, adesso questa settimana reitererò il mio appello, vediamo se mi risponde Melania. Comincia a innervosirti. Da Washington. Comincia a innervosirti il fatto che non ti risponda. È un po' fastidioso, no. Effettivamente, una risposta. No, è grande. Questo caffè decaffeinato solubile che mi innervosisce perché fa veramente schifo, eppure lo bevo lo stesso. Vabbè, prego, Leonardo, a te il microfono a questo punto. Buon allora, lunedì. Grazie. Mentre le zone rosse diventano sempre più numerose, mentre lentamente ma inesorabilmente tutta l'Italia si va colorando di rosso, io, che in zona rossa ci sono già da un po' di giorni, non posso non notare che i giorni in cui il lockdown più di altri si fa sentire sono quelli del fine settimana. Sabato e domenica, soprattutto se si hanno figli, ecco, diventano molto complicati da gestire. Consiglio ai genitori di cominciare ad attrezzarsi di venerdì con dei tranquillanti pesanti, perché il weekend porta sempre a mettere a dura prova i nervi e anche le capacità creative di ogni genitore. Prima che qualche pipistrello o chissà cosa mettesse in moto tutto questo, il weekend era strutturato in modo da poter avere qualcosa da fare che non caricasse troppo i genitori, già fiaccati di solito da una settimana di lavoro. Adesso però il fine settimana diventa un vero e proprio lavoro se, appunto, si hanno figli da gestire. Bisogna inventare una serie di attività se non si vuole che i figli consumino tutte le 48 ore di sabato e domenica davanti al telefono videogiochi. Cominciamo dal sabato mattina. Il genitore spera che sabato mattina il figlio si alzi tardi, così non si trova obbligato a gestire anche le prime ore del giorno. A un certo punto però il figlio smette di dormire, a meno che il venerdì sera non gli si metta di nascosto il sonnifero in un bicchiere di latte caldo. Ma a un certo punto il figlio si sveglia, si alza. Il genitore prepara la colazione cercando di allungare il più possibile quel momento, fette di pancarré da brustolire, magari pancake da cucinare in modo che la colazione con annessi e connessi duri almeno un'oretta. Diciamo che siamo arrivati alle 11. Bisogna a questo punto arrivare fino alle 13, ora di pranzo. In quelle due ore si fanno al figlio varie proposte che vengono regolarmente rifiutate. Le proposte ogni 3-4 minuti sono regolarmente intervallate dalla solita frase: non guardare sempre il telefono, non guardare sempre il telefono. Il figlio risponde: sì, adesso smetto, ma continua a tenere gli occhi incollati allo schermo, incurante delle parole dei genitori. Dopo mezz'ora di trattativa pesante si trova una mediazione. Allora, mezz'ora di passeggiata per andare a comprare il giornale e poi sgranchirsi le gambe al parco. Durante la passeggiata le frasi abituali sono: non guardare sempre il telefono, mentre il figlio risponde: sì, adesso smetto, e intanto continua a fissarlo. Non ci si può allontanare molto da casa a causa lockdown, quindi già prima di mezzogiorno si rientra a casa. Un'altra ora per preparare il pranzo tra una cosa e l'altra, durante la quale si cerca di coinvolgere il figlio con risultati discutibili. Si cerca di cucinare pesante per indurre nel figlio una bella pennichella lunga post-prandiale. Dopo pranzo un po' di TV e poi ricomincia le trattative, decidere cosa fare nel pomeriggio, si propone attività fisiche, eventualmente, naturalmente a casa, eventualmente anche qualche gioco. Ogni proposta viene vista con sospetto dal figlio, che trova molto più interessante lo smartphone. Verso le 5 di pomeriggio si ottiene un'altra piccola passeggiata, mentre la foschia comincia a calare insieme all'amarezza per una giornata passata così. Si rientra a casa, si prepara la cena. Il picco stavolta non è dei contagi da virus, ma è quello del colesterolo. Viene sera, si guarda un film alla TV, scoprendo di aver passato una giornata ad accumulare parole per lo più cadute nel vuoto e calorie che invece cadranno inesorabilmente e per sempre nel giro vita. Si va a dormire col solito bicchiere di latte con melatonina, sapendo che l'indomani, la domenica, non sarà un giorno migliore. Evviva! Evviva la... No, devo dire, un ascoltatore ci scrive: anch'io in smart working alle 10 mi faccio il caffè, ma me lo faccio con la moca. Ma che pigro! Ed è bello perché anche quelli che possono essere delle qualità, tipo la pigrizia, con maniera diventano degli insulti. Che pigro! Pigro! Sei un pigro! Se fai il caffè con la moca, dopo devi svuotare la moca, mettere il caffè utilizzato non so, nelle piante, dove si mette? Lì nelle piante che riescono meglio. Sì, il fondo del caffè, nelle piante. Certo, secondo me sì. Non è neanche vero, lo dicono così, per farsi belli, di avere delle conoscenze. Ma chi per farsi belle? Le piante? No. No, quelli che dicono mettete il caffè utilizzato nella pianta che cresce. È vero, leggiamo questo grande sondaggio. È una leggenda, cari ascoltatori, care ascoltatrici, oppure si mette il fondo del caffè nelle piante, nella terra, e questo agevola la crescita della pianta? Quelle leggende metropolitane messe in giro di chi vuole farsi da chi vuole farsi bello. Un po' come la castagna matta contro il raffreddore. L'hai trovata la castagna matta? Le ho cercate ieri al Parco Rambro, in mezz'ora di quella passeggiata che ho descritto nel monologo. Sai che io ero al Parco Trotter, vicino a casa, ed era pieno di mamme con i bambini. Guarda questa bella, guarda queste belle, le castagne matte con i bambini di 4 anni, 5 anni. E guardavano invece il telefono. No, i bambini no. Tu non hai mai visto una castagna matta? Sei incredibile. Mai. Andiamo al giornale. Ma non esistono neanche. Andiamo al giornale radio, vaffa. Uno, nessuno, 100 Milan. Era, non reiterare, la Melania non ti merita. La scuola solo se è in sicurezza si può riaprire, e la scuola in sicurezza non può esserci. Sì, buongiorno, ma sì ragazzi, sono giovani ragazzi, pensiamo agli adulti, a quelli che comunque hanno problemi con questo Covid. I ragazzi, passerà per ragazzi, mi sembra che la fate troppo lunga, signori miei. Buongiorno, state grossi. Non se ne può più di questa storia della sicurezza. Ragazzi, non esiste la sicurezza zero. Smettetela e smettiamola. Il virus, i virus, milioni di virus esistono da che mondo è mondo. L'hai letta, Leonardo, la ricerca dell'Istituto dei Tumori, secondo la quale i virus, questo virus, sì, c'era già da settembre 2019? Sì, è quello che già molti molti medici di base lo dicevano, che avevano visto delle polmonite atipiche già nell'autunno dell'anno scorso, insomma. La scuola già. Solo in sicurezza. Sicurezza vorrebbe dire zero contagiati, zero positivi. No, non ci sarà mai questa cosa qua. Zero, niente. Allora neanche io... lavorare in sicurezza, allora. Zero contagiati. Vabbè. Io apprezzo quello che dici tu, la tua battaglia, ma ti dico anche che la tua è una battaglia persa, caro Alessandro. Sì, Milan. Le faccio sempre in solo partenza. Persi. Solo quelle perse. No, non dico che siano sempre solo perse, ma questa è persa proprio. Sì, sì, lo so. È perché inevitabilmente. Perché quindi abbiamo... è inutile. Anche... Sì, sì, perché avevi instillato ormai questo terrore, questa paura. Allora, al di là della devi situazione devi fare solo una grave, cosa. Devi fare una scomparire, cosa. Morire. Rinuncia. È il potere magico della rinuncia. Tu prendere atto della situazione e rinunciare. Rinuncia. Dovevo ascoltare tua mamma anch'io. Rinuncia. Vabbè, signori, hai lanciato il solito tormentone. Adesso tutti a capire se i fondi di caffè servano o no a far crescere le piante. Allora, ci sono arrivati tantissimi messaggi. Intanto ci scrive Annabella e molti altri che servono a come deodorante nel frigorifero. Se ne metti nel frigorifero toglie i cattivi odori. Ma tu non hai questo problema. Questa è un'altra leggenda. No. Tanto si può dire qualsiasi cosa che non abbiamo modo di verificare, puoi dire che toglie l'odore dal frigorifero. Qui abbiamo anche esperienza sul campo, perché il buon Pietruzzo La Corte ha detto che con dei fondi di caffè ha ucciso una pianta di menta. Uccidere una pianta di menta è complicatissimo, perché è un'erba infestante la menta, buonissima, ma non la sradichi mai. Quindi lui dice... È il contrario. Perché? Perché molti ascoltatori hanno fatto notare che il caffè acidifica il terreno. Allora, va bene se hai delle piante acidofile. Se invece hai delle piante che non amano la terra acida, le fai male, ecco. E come faccio a parte che io non ho delle piante, ma sono tutte già mezze morte. Quindi, ecco. Adesso devi scoprire se la tua pianta è acidofila oppure no. E che cacchio, ma non è che possiamo... Bambino Manera, ma studia un po', tu non eri quello portatore della scienza, dei valori... Io in casa mia ho 1, 2, 3, 4, 5 piante, sì. Ma non so nemmeno... Non so che piante siano, giuro. E acidofile, no, neanch'io. Poi c'è un altro ascoltatore che ci ha mandato anche la foto della moca, dicendo: ma Nera, effettivamente, aiutati, fai la moca anche solo per il profumo. Tu non fai niente per aiutarti, per tirarti. Fai una bella moca, vinci la pigrizia, che dai, vedrai che ti tiri su, no? La moca mi piace molto come oggetto, è bella. È una bella estetica, però poi causa una serie di problemi. Buon appetito, meglio. Buon appetito. Stavo mangiando. Prima regola: non si mangia mai il radio. Prima regola, proprio dell'ABC: non si mangia mai il radio. Che poi tossisci. Ho preso un cucchiaino di pesto di pistacchio. Vabbè, dai, vedi che pesto di pistacchio. Buono. Sì, ovviamente già fatto, Clara, già preconfezionato. Clara ci scrive: il caffè è un concime per le piante acidofile, anche lei lo dice, ortensie, rododendri, azalee, le risaie, e aggiunge ignoranti. C'è anche Sara da Firenze che ci chiama, credo, su questo tema fondamentale oggi per uno nessuno 100.000. Fondamentale, è uno scoop che lanciamo qui. Sara, buongiorno. Buongiorno. Prego. È uno scoop. No, perché contraddice tutto quello che c'è scritto su internet. È vero, no, è una cosa reale, di spedizione contadina, cosa più terra. In un periodo della mia vita io ho davvero fatto l'orticello e volevo farlo piena di ideali, senza usare concime eccetera, e mi sono avvalsa dell'aiuto dei contadini. Certo, la saggezza del contadino. Ecco, secondo quello che mi ricordo dell'epoca, il contadino mi disse che dovevo usare i fondi di caffè, perché non volendo usare antiparassitari, sì, eccetera, certo. Mi disse che uno dei pochi modi naturali era circondare la piantina di fondi di caffè. Quindi nella mia mente questo è il ricordo che ho della saggezza popolare. Quindi serviva per il contadino il fondo di caffè. Ora io mi sarei dovuta ammazzare di caffè per riuscire a riempire poi sì, tutte le piante. Quindi ovviamente l'ho fatto in parte, ma insomma, ci voleva proprio un'organizzazione a livello familiare, quanto caffè produrrai mai. Insomma, io avevo fatto l'orticello in diverse piantine. non ho la capacità di dire se funziona o no, non funziona. Però Sara, questo l'ha detto il contadino. Devo dire che moltissimi ci scrivono: serve per le piante acidofile. Questo l'abbiamo capito. Probabilmente ha ragione la scienza. Non mi piace questa idea del contadino e dice le cose. Bello, giusto. Quindi l'ho voluto condividere. Giusto. Grazie, Sara. C'è un'ascoltatrice che ci scrive anche: ecco, bene, ditemelo perché ho 2 chili di fondi di caffè da parte, non so cosa farne. Ora io mi chiedo perché uno arriva ad accumulare 2 chili di fondi di caffè. Questa neanche Manera riesce ad accumulare 2 chili. No, io ho la risposta senza. È perché non ha voglia di andare a portare l'umido nei rifiuti condominiali. A volte succede anche a me di accumulare 7, 8, 10 sacchi qui sul balcone. Sì. Antonio, Antonio da Modena, infine ha un suggerimento. Manera, sei proprio pigro. Ti basterebbe chiedere alle piante. Sei così pigro che ti scoccia anche fare una domanda a una pianta. Esci per fuori sul balcone e chiedi. Non so riconoscere nessuna pianta io. L'ulivo. So riconoscere l'ulivo perché vabbè, è facile da riconoscere. Poi l'ho frequentato per un certo periodo di anni. Delle altre piante nessuna. Cosa vuol dire? Ma se quando l'ascoltatore da Bari ti ha invitato ad andare a raccogliere le olive a Torino, ti ricordi? Ma che subito hai voluto sapere quanto ti pagava. Quante ferie avevi, se il weekend era, e lui ti dava un paio di litri di olio al giorno, questa era la paga. Mi pagava in olio, sì. In olio. Io adesso ho scoperto, tra l'altro, oltre all'olio d'oliva, che vabbè è il solito, ma uso tutti degli altri oli adesso, che, per esempio l'olio di soia non sa di niente, veramente, è inutile completamente. Mi piace l'olio di riso, quando lo metto nel pan grattato insieme all'aceto balsamico viene abbastanza buono. Stupendo. Comunque dai, ormai l'abbiamo capito, ce lo dicono in tanti. Le piante acidofile, azalee, rododendri, eriche. Ecco, queste amano il terreno di... a riconoscerle, cioè, hai ragione. Senti, tu sei una azalea, sei un rododendro o che cosa? Vabbè, però qui... Dopo, alle 10:30 vi mando una foto di una mia pianta, così magari se si viene pubblicata qualcuno può dare un giudizio. Sì, dobbiamo mettere su Facebook. Io non ti saprei aiutare tantissimo. Dopo vi mando la foto. Va bene, manda la foto. Andiamo adesso la mando. Manda la foto. Uno, nessuno, 100 Milan. Song for the broken hearted. Milano, l'ascolto solo per sentire la musica, perché per sentire quello che dici la faccio pure a meno. E anch'io, visto che non si capiva niente. Ma sì, lasciatele chiuse le scuole, una generazione, creiamo una generazione di sottopagati, sottoculturati, va bene così. Buongiorno a tutti e due, sono Niki, perito agrario da Bergamo. Non fa male alle piante mettere i fondi di caffè nella terra dei vasi, ma non fa neanche bene, nel senso che il fondo di caffè, poi che aggiungere del materiale blandamente concimante. Milan e Manera, mettetelo puro il caffè nella terra delle piante che crescono, che cresceranno meglio così, boccaloni! Allora, sono le 10:20 minuti, caro Leonardo Manera, adesso... Abbiamo un ospite con noi e io lo vorrei per parlare di una vicenda dolorosa perché ha arrecato dolore alla sua famiglia oltre che al suo animale, purtroppo, e vogliamo introdurlo così, con la sua stessa voce. Qua mi ha ammazzato l'animale, bastardi. C'è una recinzione, guarda, ve lo faccio vedere. Non si può ammazzare un animale così. per una semplice caccia, e una persona anziana non può cacciare così. Non mi potete ammazzare un animale come un figlio per me. Non si può fare. Non si può fare. La disperazione, devo dire, è comprensibile. È quella di Andrea Lo Cicero, grande campione di rugby della nazionale italiana. Andrea, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi, grazie a voi per avermi dato voce. Perché in questa fattoria dove vivi con la famiglia, dove includi le persone, i ragazzi, dove fai anche aiuto per i disabili, la didattica, si dice, no? Attraverso questa asina Zaira che ti hanno ucciso, con un colpo di fucile, barbaramente, senza rimorsi, senza ragionamento, senza nulla. Il fatto più grave è aver sparato in un'abitazione dove c'erano anche animali, dove c'erano anche persone, e quindi se l'essere umano non riesce a capire questo concetto molto semplice, è difficile vivere così, perché poi non ci sono delle sanzioni che realmente condannano queste persone. Sì, poi al di là della caccia, non caccia, il dibattito, che tu hai sempre detto non sono contro i cacciatori, ma un asino, voglio dire, è un asino, cioè, ma stiamo scherzando. Sì, ma questo soggetto aveva un fucile che arriva a 2 chilometri, lui ha sparato a distanza ravvicinata dall'animale, a 70 metri da casa, dove noi eravamo presenti, perché noi stavamo andando dalle nostre asine, come facciamo abitualmente, essendo degli animali di casa, il nostro rapporto è molto diretto e intimo. Quindi trovarsi in una situazione del genere, con il rischio che uno di noi può essere ucciso, non è stato ucciso, ma noi eravamo là, quindi poteva accadere di tutto. È stata uccisa un'asina, che è come mia figlia. Infatti tu hai detto questa frase è vera, perché l'audio che abbiamo sentito è la disperazione, nel senso che è successo sotto i vostri occhi. Assolutamente, noi eravamo più o meno a 30 metri dalle asine. Le asine sono come una squadra di rugby, si muovono tutte insieme e non si muovono come animali da caccia, cioè da cacciare, sono animali che sono abituati all'uomo, non solo per quello che fanno normalmente nella loro vita, ma anche perché sanno perfettamente che per loro l'uomo è buono. In questo caso no. Non è stato buono. Questa persona, tra l'altro, è stata fermata. Da me. Cioè, direttamente. Da me, perché stava andando via. Io gli ho fatto una foto nella posizione in cui lui ha sparato, con tutta la sua attrezzatura per terra. E mia moglie ha chiamato i carabinieri, poi sono arrivati i carabinieri forestali e da là abbiamo fatto tutto. Non si è neanche ma il scusato. Motivo? Esatto, cioè qual è riuscito a dire qualcosa? Ma non puoi dare una motivazione, infatti certo. Il suo avvocato quando ho visto il servizio di Striscia gli avrà detto semplicemente: tu devi dire fino alla morte che è stato un incidente, non si può sparare in una casa e poi nascondersi dietro la parola di un incidente, è una follia, io arresterei l'avvocato e arresterei la persona, perché questo è un omicidio. Se poi per il valore delle persone o dei cacciatori o di alcuni cacciatori l'animale è un animale, noi siamo animali come loro. Sì, allora, poi avendo sparato, come dire, in un recinto, in una fattoria, poteva passare anche l'uomo, visto certo, che certo, no, certo. Cioè, il passo è molto breve. Stai sparando consapevolmente dentro un'abitazione, cioè a 70 metri da un'abitazione, con una carabina che arriva a 2 chilometri. Tengo nel mio cervello che c'è solo follia, o sei pazzo e quindi non puoi avere un fucile, nonostante tu abbia 77 anni, dovresti stare con i nipoti a fargli fare i giochi, a fargli da nonno, invece no. Poi l'aggressività anche dei figli che ho visto nel servizio di Striscia, che è sconvolgente, io mi sarei messo in ginocchio. Non con quell'arroganza, con quella supponenza, con quel modo aggressivo di parlare e di nascondersi dietro all'incidente. È la follia più totale. Sì, è abbastanza incredibile. Poi appunto c'è questo aspetto, era un'asina zaira usata per i bambini, nella terra dei bambini, quindi importante nella pet therapy, no? La terapia che viene utilizzata anche per... Sì, si fa questo percorso con i bambini per aiutarli a vivere una dimensione che è fuori dalla struttura ospedaliera e non solo, ma anche in un contesto di oasi dove è tutto è messo nella sua nel suo sistema originale. Noi siamo degli ospiti e quindi quello è il suo sistema originale, e quindi come ospiti ci mettiamo a disposizione di questi animali che sono in via di estinzione, perché questo è un asino ragusano. Quindi ci sono tante cose che hanno fatto mi hanno dato la possibilità di creare questo contesto abitativo e lavorativo, perché noi produciamo anche zafferano, ed è stato distrutto. Sì, a me la sensazione, ma così non conosco la vicenda, che è come dire: ma se mi tolgo lo sfizio, vediamo se so colpire quell'asina lì. Cioè, me la vedo così, perché non è che c'è molto di più, se no, che altra razza ci può essere dietro un gesto del genere? Vediamo se ho una buona mira a 50 metri, questo no? No, meno di 50 metri. Purtroppo sono meno di 50 metri, con un'ottica che tu praticamente vedi l'animale perfettamente. Poi dove ha sparato, cioè il punto dove ha sparato l'asino, non è sopra la schiena, ha sparato praticamente sopra il cuore, quindi perfettamente per ucciderlo. Ha avuto tutto il tempo per ragionare il colpo perfetto. Tra le altre cose, le asine erano ferme là da 10 minuti che brucavano tutte insieme. Sì, certo, l'asina proprio... mica è un coniglio che scappa, voglio dire, sta lì fermo. Quindi è così, era tranquillo e pacifico, come sempre. Adesso... Beh, comunque, una persona che spara dentro un recinto privato, qualche problema, a prescindere, insomma, lo deve avere, ecco, anche di salute mentale, diciamo. Assolutamente, ma il problema è la legge. Che non è a supporto. Esatto, ma che cosa rischia, voglio dire? Niente, ma rischierà probabilmente 4-5 anni di carcere, ma non li farà mai. Non li farà mai. Quello è il problema, perché c'è lo sconto di pena, c'è il patteggiamento, sono tutta una serie di misure che l'avvocato penalista adotterà. Affinché questo personaggio se la caverà col pagamento penalmente del processo e di qualche altro piccolo spicciolo, perché questi animali sono valutati spiccioli, capito? Se invece c'è un asprimento delle pene, non solo dal punto di vista carcerario, ma anche dal punto di vista economico, visto che comunque tu ti puoi permettere una serie di fucili che hanno un costo, allora a quel punto secondo me c'è una consapevolezza di non scherzare. L'arma è una responsabilità. Chiaro. Andrea, guarda, solidarietà, insomma, ci ha veramente colpito vedere la disperazione che abbiamo sentito anche in audio, perché Zaira poi è morta sotto i tuoi occhi. E guarda, arriva un messaggio in diretta di un ascoltatore che ci manda la foto della sua asina, si chiama Mary, e dice: solidarietà allo Cicero con la foto dell'asina Mary o Mari, non lo so, e ci dice questo ascoltatore: una fattoria e anch'io tutti i giorni ho problemi con alcuni che non rispettano gli animali, i cacciatori. Esatto. Con alcuni che non rispettano gli animali. Il problema, sapete qual è? Che quando tu hai tuo figlio e ti trovi con i tuoi animali e una persona gli spara, ma può colpire tuo figlio o tua moglie o te stesso, a me di me non interessa nulla, ma della mia famiglia sì. E poi ti liquida, non ti preoccupare che te la pago questa bestia. Perché così ti ha detto? Sì, e stava andando via. Io prendo più considerazioni nell'essere vivente animale che sull'uomo, perché questa è una barbaria, non è possibile. E per questo io ho scritto al ministro Costa affinché questa legge venga cambiata e si possa dare il nome di Zaira, non solo per i morti che ha fatto nel passato, potevano essere qualunque esso sia, che sia genere animale o genere umano, ma che non si verifichino mai più in futuro queste situazioni, perché questo è gravissimo. Il territorio è cambiato. Prima non c'erano tante persone che andavano a passeggio tra le campagne. Oggi ci sono molte più persone che vanno in giro con la bici, con i figli, con i cavalli. Quindi c'è una vita in movimento all'interno della natura. Non c'erano segnalazioni. Cioè, tutte queste cose dobbiamo tenerle conto. Le leggi sono degli anni 70 probabilmente. Sì, sì. Quindi devono essere riaggiornate nella maniera più assoluta. No, no, ma è assolutamente così, e noi ti ringraziamo. L'asina Zaira, ecco, mi sì. Scuso, l'ho nominata male, insomma, Zaira era il suo nome giusto, e grazie Andrea Lo Cicero per questa testimonianza, caro Leonardo. Mi ha molto colpito questa storia, poi vedere insomma il pilone Lo Cicero, che tutti abbiamo visto fare una carriera straordinaria in nazionale, soffrire così tanto giustamente per l'uccisione della sua Zaira e della loro Zaira, ha veramente colpito. Va bene, andiamo a sentire le informazioni sulla borsa e poi siamo ancora qui. Uno, nessuno, 100 Milan. Mi auguro che il cacciatore faccia un culo della Madonna. Ogni parola che sta dicendo questa persona è una parola giusta. Anche se non c'erano loro, non doveva sparare quell'idiota, quell'imbecille. È un essere spregevole, ma come si permette? Da cacciatore dico che quella persona, se così vogliamo chiamarla, che ha sparato all'asino, va messo in prigione. Va messo in prigione perché getta fango su tutta la categoria dei cacciatori, che vi giuro non è così. Ci vorrebbe una bella passata di Miccio the Boy in loco. Questo è la soluzione del mitico Giuseppe. No, davvero ha colpito moltissimi ascoltatori, che ha mandato solidarietà ad Andrea Lo Cicero. Davvero inqualificabile, effettivamente. Caro Leonardo, ma ti ricordi quando abbiamo parlato per via di quella vicenda di quel sindacalista pugliese, anche sindacalista della polizia, che si è presentato in una audizione alla Camera al remoto con il ciondolo, facendo vedere il ciondolo di questo Airmed, dicendo questo sì, serve, ricordo, questo serve. Io ho chiarito tutta la situazione, okay. Ho chiarito a tutti gli ascoltatori di cosa si trattava e quindi sì. Ho riequilibrato la conoscenza, sì, umana, certo. Così, però sapere, diciamo, c'è forse la persona che ci può aiutare in maniera definitiva. Lo ringraziamo, ci ha scritto un'accurata mail, si chiama David Feig, è con noi. Buongiorno Davide, grazie. Buongiorno. Amministratore unico della società La Mendel Capital, che ha sede a Isernia e commercializza, sì, questo prodotto. Allora, intanto David Feig è vittima, possiamo dirlo, è vittima di questa situazione, perché lui ha detto e ci ha scritto nella mail: noi commercializziamo questo prodotto, adesso ce lo spieghi, che abbiamo sempre detto non serve assolutamente contro il Covid, non è la risposta al Covid, e ci troviamo, come dire, usati in modo così improprio, no? Se ho capito bene, Davide. Sì, è vero. Innanzitutto volevo fare una piccola precisazione, riaffermando nuovamente che non conosciamo Tiani, non abbiamo mai avuto rapporti con Innova Puglia, né tantomeno con, sì, cioè questo Giuseppe Tiani che sì, mostrava il ciondolo in video. Sì, siamo, come hai detto benissimo, siamo stati protagonisti inconsapevoli di una vicenda negativa che ha gettato discredito su Airmed e sul progetto che portiamo avanti da diverso tempo con enormi sacrifici. Bene, ha detto bene il buon Manera, non è altro che un semplice ionizzatore. Mm-hmm. Quello che abbiamo fatto è l'abbiamo reso piccolino, indossabile, sì, proprio per dare l'opportunità a tutti i nostri clienti di portare AirMed sempre con sé. Con sé. Quindi a che cosa serve? Diciamo a che cosa serve senza tirare in ballo il Covid. A cosa serve questo prodotto? La ionizzazione, in sostanza, noi abbiamo certificato anche tra vi racconto un attimo quello che cosa stiamo facendo noi. Sì. Che noi stiamo certificando il nostro prodotto tramite delle prove di laboratorio. Abbiamo visto che AirMed riesce a un'efficacissima azione antimicrobica, cioè riduce la carica batterica totale. Poi ci sono studi che da 30 anni stanno portando avanti numerosi scienziati, medici, che dimostrano che alcune sostanze allergiche, le polveri, i pollini, con carica positiva vengono contrastati dall'azione degli ioni negativi. Quindi contro batteri e forse polveri, polline, non c'entra niente il virus, non c'entra niente il Covid. Il virus non c'entra assolutamente nulla. L'unico modo per combatterlo, l'ho detto e lo ripeto, è l'utilizzo della mascherina e del lavaggio delle mani, sociale, il distanziamento delle mani e quant'altro. E come fate adesso, voglio dire, David Feiga, a dire, cioè avete subito questa pubblicità non richiesta, negativa, adesso tutti associano questo AirMed, come dire, ma sì, vedi qua, sono venuti a farci vedere il ciondolo anti-Covid. Dovete cavalcare l'onda e dire che serve contro il Covid, così vendete di più. Assolutamente. Noi abbiamo visto dissolversi in poche ore il nostro lavoro, però ecco, ci siamo rimessi subito, immediatamente a lavorare e a iniziare a spiegare questo prodotto con una comunicazione ancora più attenta, precisa, perché il nostro consumatore deve conoscere il prodotto prima di acquistarlo. Mm. Abbiamo lavorato con coscienza e comunicando sempre i reali benefici di AirMed. Sì. Senza spacciare benefici che non c'entrano. Quello assolutamente. Non ci siamo mai permessi di dire che, tra l'altro, il nostro AirMed produce degli ioni negativi, quindi degli anioni e non dei cationi, quindi diciamo che siamo... Insomma, il vostro no, non richiesto testimonial le accannate tutte, come si vuol dire. Sì. No, io ho un dubbio, essendo così piccolo, immagino, no? È portatile, quindi è piccolino, è sufficiente a ionizzare l'aria per la grandezza necessaria per poterlo respirare in modo puro? Sì. Difatti viene appeso al collo e viene messo più o meno all'altezza dello sterno, quindi molto vicino alla zona di respirazione. E poi la cosa molto interessante è che AirMed riesce a produrre circa 20 milioni di ioni negativi, quindi una quantità molto molto elevata. Manera, per esempio, tu hai parlato che anche tu possiedi uno ionizzatore a casa, perché ti è stato consigliato, perché sta cercando di rivenderlo a sottocosto, perché ecco, se lo vuole comprare lei 20 euro glielo potrei dire. Però ecco, no, probabilmente AirMed è molto più potente del suo ionizzatore che ha a casa. Perché ecco, sì, è un dispositivo molto molto potente, in grado proprio di creare dei grandi benefici sulla zona di respirazione. Sì. Cioè, voglio essere chiaro, la ionizzazione non è una panacea tutti mali, però ci sono dei soggetti. C'è quest'ultimo dubbio, Feig, perché poi dobbiamo andare al traffico. Non è che Tiani, che non c'entra niente con voi, ha detto che è un prodotto israeliano, perché ci scrive un ascoltatore, ha visto IS come Isernia? Cioè, È israeliana come tecnologia? No, assolutamente. È di Isernia. Assolutamente. Isernia! No, Israele, ti amo! Abbiamo una unità locale in Israele, ma non è assolutamente israeliana. Ma potremmo avere un'unità locale in Canada, ma questo non vuol dire che non ha una tecnologia canadese. No, lo so, però allora un legame con Israele c'è un legame, però non c'entra no, niente. No, visto che il dubbio era questo, che Tiani avesse messo insieme un po' di cose, magari ha detto, ha visto Isernia, ha detto Israele. No. Comunque, David Feig, la ringraziamo, è venuto a fare chiarezza su questo Airmed che, per bocca dello stesso colui che lo commercializza, non serve assolutamente contro il Covid, non l'hanno mai detto loro di Airmed, è stato detto da Tiani così in un'audizione. Dai, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, siamo in chiusura con la sardina che torna con noi, il signor Elenio Mariotti. Io una volta l'ho chiamato Efisio, mi scuso ancora per la scarsa educazione. Elenio, buongiorno, signor Elenio. Grazie per avermi invitato, cioè, è stato un gesto di educazione. Scusi l'invito, ancora per l'altra volta. Ma guarda, non c'è problema. Se c'è una cosa che noi sardine apprezziamo è proprio l'educazione, quindi accolgo le sue scuse. Bene, bene. Ma noi siamo educati, sì. Per esempio, se noi siamo allergici al basilico e degli amici ci invitano a cena e fare la pasta al pesto, noi la mangiamo lo stesso. Perché è meglio rischiare lo shock anafilattico che rischiare di non essere educati. Insomma. Pure se incontriamo un anziano su un marciapiede stretto e in due non ci passiamo, ci andiamo noi dal marciapiede. Beh, giusto. Anche se magari sta passando un monopattino che ci falsa le caviglie. Io una volta sono stato appunto da un'ape e ho chiesto scusa io all'ape, mi sono sentito molto bene, perché solo chi è veramente educato può essere una sardina. Ecco. Chiedo scusa se ho alzato i toni, ma è ora che qualcuno si prenda la responsabilità di dire le cose. L'educazione è importante. Ecco, ma io posso chiederle, come sempre, chi sono le sardine? Glielo chiedo, chi sono le sardine? Ma proverò a dirlo con parole mie. Sì. Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Ci sono anche le ragazze che sono così dolcemente complicate, qualcuno bello impossibile con gli occhi neri e quel sapore medio orientale. Cioè, adesso lei parole potrebbe sue, forse sì. Sì, forse potrebbe dire che vuole trovare un senso a queste cose, anche se queste cose un senso non ce l'ha. Allora, basta, io mi permetto di prendere una posizione forte, forte, forte, e dichiaro che le chiavi di casa è meglio differenziarle con un colore, altrimenti scegli sempre quella sbagliata. È vero, questo. Come sardine dobbiamo avere il coraggio di dire le cose in cui crediamo davvero, cioè la bontà. La bontà. Bisogna essere chiari fino in fondo, bisogna dire che la bontà è educata, la cattiveria no. Se c'è la bontà puoi fare tante cose, per esempio metterti la protezione solare, mandare una raccomandata, scartavetrare un mobiletto, ma piano, perché se c'è la bontà viene meglio anche il decoupage. Quindi la bontà e l'educazione sono gli elementi fondativi. Sì. Delle sardine. Senta, abbiamo un minuto che e mezzo, si contraddistinguono per questo motivo, mi dica. No, volevo chiederle questo, ma in un anno, visto che siete nati un anno fa, come si sono evolute le sardine in questo anno? Se noi dobbiamo pensare che la vita è come una tartaruga, cosa c'è? È comodo rimanere nel proprio guscio, ma devi comunque affrontare sassi e polveri sottili, e questo è un problema, soprattutto perché le tartarughe campano 100 anni. Però ci tengo a dire una cosa importante, e cioè che uno spettatore non sbaglia mai, mentre chi è in campo a giocare può anche sbagliare. Ecco perché le sardine sono attente a non fare errori difficili da recuperare, tipo dimenticarsi un fazzoletto di carta nella tasca dei jeans quando li metti in lavatrice. Perché noi dobbiamo partire da due riflessioni fondamentali. Sì. La prima è che non è facile ricordarci se l'albume è il bianco o il giallo. La seconda è che la signora elegante, la signora elegante che fa fare la pipì al cane sul tuo portone, ha rotto i coglioni. No, no, lo so che non è tanto educato, ma no, è vero. No, no. Signora, è inutile che fai finta di niente, mi dici buongiorno, no, bella tranquilla, perché io sono giorni che aspetto con i cannocchiali sul balcone in attesa, no, in questo momento. Buongiorno, dice lei. Scusi, mi rendo conto che ha alzato un po' i toni, sì, non è da sardine. Devo ti chiudere. Aspetto, signora, nascosto dietro una macchina, ti lancio dei petardi sui piedi, no, se fai ancora Elenio, fare la pipì no, al tuo cane sul mio portone. No, ho provato anche a dirglielo con educazione. Signora, scusi, potrebbe portare il suo cane chiudere, in una aiuola? Lei mi ha risposto, non è stato il mio cane. Mi è ancora lì con la gamba alzata. Sfuma. Ha perso l'educazione, no, ci fermiamo qui perché gli è finita la bontà. Vai. Uno, nessuno.